di Baldone, un programma in italiano non solo per italiani. In onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. Buon pomeriggio, bentornati qui sulle frequenze di Radio Contrabanda per una nuova puntata di Zibaldone, dove viaggeremo parecchio. E cominciamo proprio viaggiando anche con questo brano. è iniziata ufficialmente l'estate qualche giorno fa e quindi noi qui a Zibaldone non possiamo non viaggiare. Lo facciamo con la musica, l'avete sentito subito con questo primo brano della puntata di questo 28 giugno. Ci rimangono poche puntate, ma puntate ricche, e anche queste ricche, quindi ci ficchiamo subito in questa puntata. Etrennes de l'air, Igre Massina, dal loro nuovo disco. In realtà questo è un'anticipazione, perché il disco uscirà il 6 settembre per Sahel Sounds. Il titolo è 100% o 100% detto in italiano, Sahara Guitar, insomma la chitarra del Sahara, di questa band davvero eccezionale. E noi viaggeremo molto, Banzo, insomma, in tanti posti, soprattutto in Brasile, ma questo insomma ci arriviamo poco a poco perché abbiamo un po' di tempo per spiegarlo ai nostri ascoltatori. Banzo, innanzitutto bentornato a Zibaldone, più ergonomico che mai, buon pomeriggio a te. Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti, prontissimo a viaggiare con la mente perché sono in postazione, quindi per il momento non mi posso allontanare, ma insomma quando finiremo magari esco e vado a fare 5 passi per il quartiere. Oh, bravo. Ma eccoci qua, abbiamo cominciato comunque con, sì, hai giustamente sottolineato che parleremo soprattutto di Brasile, però abbiamo cominciato col Niger, con gli Etrennes de l'air, che io sponsorizzo come se ce ne fosse bisogno, visto che sono abbastanza famosi in tutte le occasioni possibili, e questo nuovo disco, come giustamente sottolineavi, ha un titolo che sottolinea la preponderanza delle chitarre, perché è, nelle loro parole, il primo disco che gode di una vera e propria produzione di studio. Hanno girato molto in tour Europa, Stati Uniti, infatti è stato prodotto fra Portland e Los Angeles, e quindi approfittando di questi strumenti di produzione hanno aggiunto ancora più stratificazioni chitarristiche in un suono che è eminentemente chitarristico. E questo primo anticipo, questo primo assaggio mi incuriosisce molto. Aspetteremo fino a settembre, perché intanto comunque è estate, viaggeremo e torneremo e ci sarà il nuovo disco di Etrennes de l'air ad ascoltare. Bella storia, grande Banzo, preciso e puntuale come sempre. E dicevamo, viaggeremo soprattutto in Brasile, sì, perché gli ospiti di questa puntata di Zibaldone sono Rocco D'Alessandro e Giulia Mag, e loro ci racconteranno del loro progetto che si chiama Vitamina Project, del loro viaggio, perché in questi mesi si trovano proprio nel mezzo dell'Amazzonia, e quindi insomma tra poco li sentirete. Siamo riusciti a trovare un momento in cui c'era una buona connessione in questi loro mesi in Brasile. Ci spiegheranno appunto qualcosa di più, e da qui anche il titolo della puntata, che appunto è Per un turismo ecosostenibile. Ne parleremo con loro. Banzo, però, prima di andare in Brasile, andare in Amazzonia con Rocco e Giulia, andiamo ad ascoltarci un altro brano. Si intitola Tristi Tropici, di Kiwi o Kiwi 666, che ha bisogno, io credo, di una spiegazione, perché tra l'altro insomma è una produzione dei nostri amici di Trova Robato. Esatto, ognuno ha gli amici che può, e noi consideriamo il nostro amico Trova Robato, che è un'etichetta che ha compiuto un lavoro straordinario, e questo fine settimana a Bologna festeggia il ventennale delle loro attività. E, Kiwi 666, al secolo Roberto Andrés Lantadilla, è italo-cileno, per questo il nome suona ispanico, è una delle loro ultime produzioni. Il disco si chiama Y o Y, come volete, è coprodotto insieme a Dischi Sotterranei 2024, e la title track Tristi Tropici, che è una citazione del saggio del 55 di Levi Strauss. Dicevo, questo brano appunto anticipava tutto, è uscito nel 2023 anticipando il disco, e si caratterizza un po' per quello che è una buona esposizione del progetto, cioè all'insegna di tropicalismo kitsch, diciamo. Eh vabbè, bello, ce lo andiamo subito ad ascoltare, poi andiamo in Brasile. Tristi Tropici, Kiwi 666. Yeah. abbiamo addirittura dal Brasile, esattamente dal Mato Grosso del Sud e ancora più precisamente da Aquidauana, che poi insomma ci spiegheranno dov'è esattamente, di che cosa si tratta, abbiamo in collegamento gli ospiti di questa puntata di Zibaldone. Stiamo parlando di Rocco D'Alessandro, D'Alessandro e Giulia Mag, che sono gli ideatori di un bellissimo progetto, si chiama Vitamina Project. Rocco è scrittore, Giulia è fotografa e si occupano, adesso ce lo racconteranno meglio loro, però di ecoturismo, producono tantissimi contenuti, tantissime storie, fotografie, racconti, insomma, e adesso proprio sono in uno dei loro viaggi che stanno portando avanti da ormai una decina d'anni, proprio appunto nel Mato Grosso del Sud, e li abbiamo in collegamento con noi in via telefonica. Do subito il benvenuto quindi a Rocco e Giulia, un piacere avervi con noi questo pomeriggio a Zibaldone. Ciao Steven, ciao a tutti gli ascoltatori. Un piacere essere con voi. Un piacere avervi qui, sapendo anche che siete in giro in posti sperduti, dove a volte non c'è neanche la connessione. Insomma, siamo riusciti a trovare, ecco, un momento con la connessione per questa puntata di Zibaldone. Allora, innanzitutto, raccontateci, cominciamo da cos'è Vitamina Project e quello che voi state facendo da ormai un decennio. Anche così i nostri ascoltatori possono capire perché poi vi trovate in questo momento in Amazzonia. Allora, in pratica, nella pratica, Vitamina Project è un sito internet, quindi vitaminaproject.com, che parla ormai da più di 10 anni di ecoturismo. Noi ci occupiamo di sviluppare nuovi itinerari turistici che siano sempre eco per nuovi viaggiatori, quindi andiamo alla scoperta del mondo cercando di raccontarlo sotto questa chiave. Il riferimento poi è il nostro sito internet, come diceva Giulia, dove appunto i lettori possono trovare oltre ormai 600 articoli sulle varie destinazioni del mondo, però scritti sempre in chiave sostenibile, diciamo. E diamo servizi diretti al viaggiatore per appunto la creazione di nuovi itinerari ad hoc per chi deve affrontare un nuovo viaggio, quindi ci contatta e li aiutiamo a creare itinerari. Ecco, e soprattutto appunto dal punto di vista fondamentale, io credo, anche parlandone da Barcellona, di un turismo sostenibile, perché insomma stiamo vivendo in una tappa in cui il turismo nuovamente, e a ragion veduta, in molte città europee, non solo europee, se ne parla come un problema che provoca la gentrification, che no, il fenomeno della turistificazione. Certo. Ecco, voi invece cercate di, diciamo, riportare il turismo a una dimensione diversa, per utilizzare delle parole un po' così terra terra, no? Sì, assolutamente dici bene. Quando abbiamo creato il progetto 10 anni fa, ormai, lo abbiamo fatto sulla base di un lungo viaggio di scoperta in America Latina, proprio da Buenos Aires a Los Angeles, una delle chiavi e dei focus che volevamo sottolineare era proprio il rispetto dei popoli e dell'ambiente, quindi un turismo sostenibile e responsabile, che all'epoca non era proprio così accettato né considerato. Ma che ora diventa una necessità totale, perché realmente il turismo rappresenta ormai il 5% delle emissioni globali annue, e quindi è importante riuscire a muoversi in maniera diversa, più lenta e nel rispetto dell'ambiente. Ma soprattutto al di là della, che poi magari possono sembrare concetti noiosi, in realtà fare ecoturismo, turismo sostenibile, in realtà ti proietti il viaggiatore dentro una dimensione reale super interessante, quindi magari non lo so come viene proposto al di fuori, però vivere queste esperienze rende tutto più affascinante, credo. È proprio un viaggio esperienziale quello che promuoviamo noi. Ascolta, ci parlavate di questo primo viaggio, no? 33.000 chilometri, un anno di viaggio appunto dall'America del Sud, dal Cono Sur fino a Los Angeles. Insomma, voglio dire, questa è stata anche un'esperienza molto intensa. Magari qualche aneddoto, qualche pillola, o almeno raccontarci anche lì com'è andata questa esperienza, credo che è stato un po' l'inizio di tutto il progetto che portate avanti. Certo, esattamente. Allora, quel viaggio, scusami che siamo in posti appunto imprevedibili, quindi c'è qualche rombo di tuono. E ti dicevamo, sì, quel viaggio lì di fatto ha cambiato le nostre prospettive, perché ci ha spinto alla scoperta di territori all'epoca molto remoti, come lo sono in parte adesso ancora, e solo via terra e via acqua, con l'obiettivo di non prendere aerei uno da un lato di rispettare l'ambiente e anche dall'altro per conoscere meglio i territori che andavamo appunto ad approcciare. Ci sono tantissimi aneddoti come rimanere fermi nelle frontiere, rimanere anche senza possibilità di avere soldi, denaro o lavarsi, insomma ce ne sono tante. Immagino, noi se ci permetti ci permettiamo di segnalare un nostro libro che abbiamo scritto qualche tempo fa, che si chiama Tracce dal Sud, e che riguarda proprio quel viaggio lì, con tutto ciò che ne deriva, ne derivò di fatto, no? Sì, è un libro pieno di episodi reali, è divertente, avventuroso, ma allo stesso tempo dà anche un sacco di informazioni proprio sul continente latinoamericano. Ma ascolta, ma ce ne sono tanti, invitiamo ovviamente a leggere Tracce dal Sud e i nostri ascoltatori, chi può essere interessato in questi temi, che immagino siano molte le persone che hanno voglia di saperne di più e scoprire anche il vostro viaggio. Però ecco, è così, su due piedi, un aneddoto che dite, beh, questa è la cosa veramente più strana che in quel viaggio o nei 40 viaggi successivi che poi insomma avete fatto vi è capitata, dai, ditecene una. Allora sì, assolutamente, vabbè, ce ne sono, vabbè, la prima cosa che mi viene in mente, che è difficile ricondurre ad un episodio, però è l'attraversamento della frontiera tra Panama e Colombia, che è un territorio appunto caratterizzato da un'enorme foresta vergine in territorio panamense che si chiama il Darién. Bene, ovviamente noi affrontando questi tipi di viaggi non riusciamo a percepire tutte le informazioni se non quando siamo in loco, e allora lì scoprimmo che l'unico modo per affrontare, evitando l'aereo ovviamente, quella frontiera era via mare. Ma questo non dice nulla se non appunto vivere quell'esperienza che ci vide appunto attraversare quel tratto di mare di Mar Caraibico molto agitato in un motoscafo pieno di persone e nel bel mezzo di una tempesta, diciamo, di mare. Quindi poi questo non bastò, perché nel momento in cui raggiungemmo l'ultimo paesino di frontiera colombiana, da lì ci aspettava Marcelino. E Marcelino chi è, Giulio, vuoi dire tu? Marcelino è stato il nostro traghettatore, diciamo, dall'ultimo posto Capurgana, che è colombiano, fino a Puerto Baldia, che è la prima cittadina che si incontra panamense, dove noi con la tranquillità del mondo, quando loro hanno iniziato, i gendarmi hanno iniziato ad aprire tutte le valigie, mi hanno detto, vabbè, ma noi siamo viaggiatori, siamo italiani. Il tipo ci guarda, si mette a ridere, fa, ah sì, ieri sono passati proprio due italiani con 40 kg di cocaina nelle valigie. Abbiamo detto, benissimo, ho detto proprio la nazionalità giusta, e niente. Ci hanno controllato dalla testa ai piedi, e in tutto ciò in realtà mia madre stava viaggiando con noi, aveva 64 anni al tempo, ed è stata fantastica, perché in quelle onde pazzesche che Rocco ha appena raccontato del Mar Caraibico, in realtà ce n'è stata una molto forte, abbiamo rischiato la schiena di mia madre. È stato un momento veramente difficile, ma che poi adesso raccontiamo con felicità perché è andato tutto bene. Sì, come sempre. Poi arrivare in paradiso, perché poi siamo arrivate alle isole di San Blas ed è veramente veramente un paradiso. E una domanda così che mi viene in mente parlando di queste tematiche, e tenendo conto qual è la vostra prospettiva, appunto quella dell'ecoturismo, no? Rendere il turismo sostenibile, sì, ma anche appunto proteggere l'ambiente, proteggere le comunità locali, dopo ci torneremo anche a partire dal viaggio che state facendo adesso. Non pensate però che ci potrebbe essere un lato, diciamo, imprevisto del vostro progetto, ossia il rischio di convertire in turistici, in un senso non positivo, per parlare pane al pane, vino al vino, zone che sono ancora, per così dire, incontaminate o poco contaminate? Sì, è una bellissima domanda questa, ed è sempre stata il nostro cruccio, diciamo, è sempre stato lì. Infatti siamo i primi a proteggere determinate destinazioni che sentiamo importante proteggere e che decidiamo aprire quando stiamo realmente conversando con i viaggiatori che andranno direttamente lì. Noi non parliamo a un turismo di massa, quindi nonostante il sito internet abbia un flusso abbastanza grande, per fortuna, in realtà determinate informazioni le diamo solamente nel momento in cui facciamo il servizio diretto al viaggiatore, quando per esempio prenota una consulenza personalizzata chiacchierata con noi e ci rendiamo conto dell'interesse, della sensibilità della persona. Quindi per esempio non geolocalizziamo determinati paradisi, perché comunque appunto tramite i social è molto facile, questo non perché vogliamo essere i detentori di posti degli ultimi paradisi, ma appunto perché con Instagram è molto facile rendere un luogo instagrammabile in un secondo, stravolgendolo di fatto. Quindi cerchiamo comunque in qualche modo di attivare dei filtri. Che poi in realtà anche gli stessi posti fanno da filtro, perché molte volte, soprattutto ora che è tutto abbastanza già conosciuto, i posti che rimangono poco conosciuti sono poco conosciuti anche perché sono di difficile accesso. E in questo viaggio che stiamo facendo adesso abbiamo vissuto con più di 6 comunità indigene amazzoniche, esperienza pazzesca che siamo contenti di aprire ad altri viaggiatori, ma che appunto per poterci arrivare ci devono fare una serie di passaggi anche per avere i permessi per entrare lì dentro, perché sono proprio delle famiglie, sono comunità che quindi devi essere diciamo che il viaggiatore zaino in spalla ecosostenibile è un viaggiatore motivato e che quindi fa abbatte quel filtro del turista comodo, diciamo, per esigenze diverse appunto, non senza giudicare nessuno. No, assolutamente, ma infatti anch'io pensavo ovviamente a quello che dicevate, quanto male ha fatto Instagram negli ultimi 10 anni a molti posti che magari erano un po' turistici, ma sono diventati ormai di massa, sono delle zone ormai comanci che sono diventate praticamente distrutte da questo punto di vista, penso anche in Europa ovviamente, ma dall'altra penso anche invece a un tipo di turismo, diciamo così, più da zaino in spalla, per quanto con molte particolarità, che è quello che succede sull'Himalaya, dove sull'Everest ormai ci sono spesso dei reportage dove appunto si racconta che c'è la coda per andare sulla cima dell'Everest, con poi tutta l'immondizia buttata di sotto, no? E quindi si è trasformato, non fare le vasche a Bologna, quello che si diceva una volta su Via Indipendenza, però un'esperienza non quasi. Così esattamente. E ragazzi, quello che vi voglio domandare è, parliamo del viaggio che state facendo ora, perché appunto non siete in collegamento dall'Italia ma siete dal mezzo dell'Amazzonia, e è un viaggio, adesso siamo più o meno nel mezzo se non sbaglio, di 3 mesi in Amazzonia, è vero? Praticamente attraversate tutto l'interno del Brasile. Esatto, noi praticamente siamo arrivati e atterrati a Belém do Pará il 6 maggio e quindi poi abbiamo attraversato alcuni stati dell'Amazzonia, ed è stato quello un passaggio molto difficile e affascinante, perché l'Amazzonia rimane uno degli unici, dei pochissimi posti veramente remoti della terra dove è difficile anche delle volte magari reperire denaro perché non ci sono appunto l'ATM, oppure dove l'acqua e l'elettricità ha un orario specifico, dalle 5 del pomeriggio fino alle 9 di sera, e si segue proprio il ritmo naturale della vita. Ma poi anche nel viaggio, per esempio, per trasferirsi da un punto all'altro bisogna effettuare tanti trambusti, passare tanti trambusti che bisogna avere un minimo di tempo. Ma è bello proprio quello, perché rende tutto più avventuroso, ma a parte in realtà protegge proprio questi luoghi ancora super originali. Poi per quanto riguarda il nostro progetto, come dici tu, adesso siamo in Mato Grosso, quindi stiamo incontrando i vari ecosistemi del Brasile, di questo paese enorme e incredibilmente ricco dal punto di vista naturalistico, che sono l'Amazzonia. Poi c'è la savana, che quindi è denominata Cerrado, e attualmente siamo nel Pantanal, quindi un'enorme pianura alluvionale che si allaga in determinati periodi dell'anno. E andremo verso il litorale per finire il viaggio nello stato di Rio de Janeiro. Ah, bellissimo, quindi insomma un viaggio molto completo, io ho visto la cartina che è disponibile sul vostro sito, che lo ricordo è vitaminaproject.com, dove appunto mostrate il progetto di viaggio, quindi insomma partite dalla costa, da Belém, entrate nel mezzo del Brasile, quasi arrivate insomma sulla frontiera anche con la Bolivia, e poi ritornate sulla costa passando da Brasilia e arrivando fino a Rio, no? E tra l'altro su questo, il vostro progetto non è appunto quello che ci state già raccontando, che non è solo, voglio dire, il viaggio ecosostenibile, l'ecoturismo, che è il fulcro, insomma, il pilastro principale, ma è la dimensione del viaggio, che non è arrivare in un posto, ma è appunto, come no, stavate raccontando, anche la bellezza del viaggio, del cammino per arrivare poi in qualche luogo, ma è anche una serie di incontri. Ecco, voi avete stato incontrando diverse realtà, fondazioni, comunità che lavorano sul territorio, soprattutto, ma non solo, con diciamo i progetti di difendere la natura, proteggere l'ambiente, proteggere le comunità locali. Sì, esatto. Grazie, perché questo è veramente un focus super importante e che ha condotto tutto questo viaggio. E infatti questo viaggio di 3 mesi l'abbiamo titolato Vitamina Project per un pianeta verde. Abbiamo sentito la necessità di partire dal polmone verde del mondo, quindi l'Amazzonia, per poi proprio seguire anche i biomi, come li chiamano qui, quindi diversi ecosistemi, fino ad arrivare, diciamo, a Rio, no? E in questo modo raccontare quello che sta succedendo proprio nel pianeta attraverso i nostri racconti, ma anche attraverso il lavoro di tantissime persone che si battono tutti i giorni per la difesa dell'ambiente, per la riforestazione e per gli animali. Esatto, gli animali in via di estinzione. Una delle cose che stiamo realmente riscontrando adesso in maniera estremamente evidente è l'emergenza siccità. Cioè, ci siamo resi conto che fiumi anche in Amazzonia stanno iniziando a riempirsi con 2 metri, 2 metri e mezzo in meno d'acqua. Ossia, è veramente grave la situazione. Allo stesso periodo dell'Ilan, esatto, che anno fa, per dire, il, no? Pantanal, per esempio, che è la zona dove siamo adesso, che appunto Rocco descriveva come una pianura alluvionale, in realtà ora dovrebbe essere in piena e invece è secchissima e non c'è proprio acqua, e questo è un problema. In tutto questo, in realtà, stiamo andando a documentare anche il lavoro di diverse persone, tra cui non so, la ONG Tamandua, che sì, sono infatti, Steven, ti volevamo raccontare adesso che siamo stati ospiti di questo istituto che cerca di proteggere una delle specie in via di estinzione, che è il formichiere gigante, e curandolo, recuperandolo dagli incendi, che dalla conseguenza degli incendi che vengono appiccati volontariamente, e siccome è un animale molto lento è una delle prime vittime, ma soprattutto adesso sta riducendo la sua diciamo il numero degli esemplari, e siamo stati in contatto con questo istituto per seguire proprio il processo di cura e poi successivamente di reinserimento nel suo habitat, nell'ecosistema. Poi andremo quindi è un lavoro veramente complesso e profondo quello che stanno facendo tutte queste persone. Sono ONG non politicizzate, quelle che stiamo scegliendo sono un po' più piccole, ed è un piacere realmente vedere che ci sono un sacco di anime sensibili alla natura e che si battono tutti i giorni. Poi adesso, tra pochi giorni, entreremo in contatto con Arvoredo, che è un'altra ONG che si occupa della riforestazione del Cerrado, questo ecosistema, e poi con MIB, Muri, che è un progetto che protegge la scimmia più grande del Brasile, che è uno scimmione di 1,50 m, anche lui in via d'estinzione, e quindi insomma, e concluderemo probabilmente con l'Istituto Terra di Sebastiano Salgado, che è un altro progetto di riforestazione molto importante. Quindi insomma state incontrando realtà che lavorano sul territorio e che sicuramente vi offrono insomma anche uno spaccato molto particolare di quello che succede appunto in questo caso in Amazzonia. Un'altra questione, stando in Amazzonia, che vi volevo domandare è dell'Amazzonia. Si parla da tanti anni ovviamente con l'importanza che insomma la lotta contro il cambio climatico, per insomma in difesa del pianeta ha assunto, no? Negli ultimi anni, negli ultimi decenni. Ecco, però se ne è parlato poi soprattutto dopo la vittoria di Bolsonaro nel 2018 per le politiche, appunto. Prima parlavate, no? di incendi che si appiccano appunto in alcune zone dell'Amazzonia, in quel caso legato anche, no? Anche al rischio di scomparsa del formichiere, no? Dell'Amazzonia. Ecco, quello che volevo domandare è, insomma, stando là in questi mesi, tenendo conto del cambio politico che c'è stato in Brasile 1 anno e mezzo fa con la vittoria di Lula, e tenendo conto però anche dell'importanza del Bolsonaro bolsonarismo così diciamo sociologico, come blocco sociale legato anche appunto a tutto il mondo che cerca di guadagnarci un sacco di soldi dalla distruzione dell'Amazzonia, ecco. Qual è insomma la percezione che state vedendo voi? Qualcosa è cambiato rispetto agli anni di Bolsonaro? Sono delle dinamiche di fondo invece difficili da estirpare? Lula sta portando avanti insomma un cambio di paradigma, ce la fa, non ce la fa, insomma cosa ci potete dire al riguardo? Allora Steven, forse ti sorprenderemo, ma perché ci siamo sorpresi anche noi, ma queste sono le testimonianze della gente, anche personalmente delle popolazioni indigene, ai quali abbiamo fatto la stessa domanda, ma anche alle persone del posto, e sorprendentemente è venuto fuori che la situazione sta peggiorando, perché da quello che abbiamo potuto riscontrare c'è stata una forte strumentalizzazione della figura di Bolsonaro e quindi nei confronti a vantaggio di Lula, ma sembrerebbe che l'innesto di Lula non sia affatto portando avanti quelle che erano state le proposte iniziali, e quindi il Brasile attualmente sta versa in una situazione di limbo. Anche molto difficile da gestire. Quindi, sì, è stato strumentalizzata, i media hanno detto completamente il contrario, diciamo, di quello che stava succedendo realmente. È assurdo, perché anche noi, prima ancora di arrivare qui in Brasile, o comunque prima ancora che venisse eletto Lula, eravamo a conoscenza delle versioni europee su Bolsonaro, ma i brasiliani attualmente, facendo un raffronto, si dimostrano a favore di quello che è stato il governo passato, paradossalmente. Vabbè, però voglio dire, questo te lo diranno anche molta gente in Italia su Meloni o degli americani su Trump. Questo non toglie che Jair Bolsonaro è un leader di ultradestra che non rispetta i valori democratici e che sicuramente non aveva a cuore l'Amazzonia, no? Sì, però per dirti, le comunità indigene, che sono loro che vedono sulla loro pelle i cambiamenti politici, per esempio c'è un organo in Brasile che è la FUNAI, che ovviamente tocchiamo un tema caldo, che ovviamente si propone un ente che dovrebbe proteggere le popolazioni indigene, ma in realtà sono le stesse popolazioni indigene a riscontrare un cambio di paradigma, come dici tu, ma in peggio nei loro confronti. Quindi noi ti riportiamo le situazioni, diciamo, quello che ci è stato detto da diverse persone, anche di diversi strati sociali. Abbiamo veramente parlato con persone completamente diverse, ci ha stupito tantissimo tutto quello che le persone ci hanno detto. E non sappiamo realmente prendere una posizione, perché ecco, siamo stupiti rispetto a questo, tutto quello che sapevamo. Sì, poi il Brasile rimane da sempre comunque un paese di grandi contrasti, e oltre che sociali ma anche economici, e quindi certo, probabilmente è un riflesso della sua essenza, però al momento noi stiamo affrontando questi temi, te li riportiamo così come certo, li abbiamo, certo, in maniera oggettiva, senza nessun senza prendere posizioni né destra né sinistra. Non è una questione politica, è una questione proprio di azioni rispetto alla popolazione, alla natura, certo, e stiamo vedendo questo tipo di riscontri. Certo, no, è molto importante ovviamente avere la vostra versione, che siete sul territorio. E allora, per chiudere la chiacchierata con voi, perché poi potremo parlare di tantissime altre cose, voi appunto adesso siete nel Mato Grosso del Sud, vi rimane più o meno ancora un mese in Brasile in questo viaggio? Allora sì, ci rimane, noi abbiamo il volo di ritorno, perché il Brasile permette al viaggiatore, cioè un visto turistico, di stare 90 giorni nel territorio, come tutti molti altri paesi, però poi c'è bisogno di stare altri 180 giorni fuori, quindi torneremo in Europa, abbiamo il volo di ritorno da Rio de Janeiro il 4 agosto, quindi ci manca ancora un mesetto e più. Mm-hmm. E se ci permetti, volevamo ricordare agli ascoltatori, noi abbiamo lanciato una campagna di crowdfunding proprio da qualche settimana per sostenere le iniziative che stiamo portando avanti noi qui in Brasile, ma anche proprio per creare un videocorso legato al turismo sostenibile e responsabile. Tutte le informazioni si possono reperire sul nostro sito. Se qualcuno degli ascoltatori ci vuole supportare, noi saremo felici, insomma. Sì, trova il link sulla nostra biografia di Instagram, direttamente alla pagina di Produzione dal Basso, che è dove abbiamo appunto questa pagina di raccolta fondi. Esatto, e i fondi verranno destinati in parte alle ONG che stiamo andando a trovare e a documentare in questi giorni fino alla fine del viaggio, e appunto poi alla creazione di questo corso che servirà a chi vuole imparare a viaggiare in questo modo, come crearsi il proprio itinerario, come viaggiare in maniera sostenibile e lenta. E quindi cercheremo di mettere in questo videocorso tutto ciò che sappiamo e abbiamo raccolto in questi 10 anni. Beh, bello, molto bello. E ricordo ancora a chi ci sta ascoltando, per seguire i vostri progetti, ovviamente la vostra pagina web vitaminaproject.com, e poi ovviamente se vuole scoprire più cose anche a partire dal vostro primo lunghissimo viaggio, un anno, 10 anni fa, 33.000 chilometri praticamente dalla Patagonia fino a Los Angeles, ecco il vostro libro Tracce del Sud. Un buon libro è sempre una buona maniera per imparare a leggere. E, ragazzi, allora innanzitutto grazie di averci accompagnato, buona continuazione del vostro viaggio ecosostenibile nel mezzo dell'Amazzonia, teneteci al corrente di quello che succederà, insomma, poi anche quando sarete tornati. Con piacere. Grazie, grazie davvero Rocco e Giulia, Vitamina Project, una bella esperienza e in bocca al lupo per il mese che vi rimane in Amazzonia, in Brasile. Grazie, grazie a te mille. Steve, e a tutti gli ascoltatori. Dicevano che ero appiccicoso, ma era ingiusto che volessero vivere senza di me. Grillo scarica l'imperatore del Giappone e la moglie, che ribatte: il nostro destino non è nelle sue mani. Guardandola negli occhi, la smentisce: il ministro Giorgetti era previsto così. Avanti con il percorso di responsabilità di Tokyo. caldo soffocante al centro-sud, il suo popolo entusiasta è pronto a seguirlo nella prossima tappa a Bari. I medici evitare di lavorare nei campi nero per pochi euro, bere molta acqua e anche lacrime e preghiere. L'INPS assicura il 63% degli anziani, almeno fino a venerdì, a Roma sono vivi. Putin in visita in Corea del Nord, firmato con Kim Jong-un un patto che prevede tra l'altro finte visite mediche in baracche fatiscenti, oltre a sostenere l'ex nunzio apostolico negli Stati Uniti, Carlo Maria Viganò, come sex symbol. Meno stressati e più produttivi con accanto il ministro San Giuliano, invece di lasciarlo a casa da solo. Oggi è la giornata mondiale delle aziende che lo consentono e non è finita. Il suo popolo entusiasta è pronto a seguirlo nella prossima tappa a casa di Taylor Swift. Tappeti rossi, mancanza di senso dello Stato, travolgente e danze di gruppo per il via libera definitivo all'autonomia differenziata. Primi effetti della riforma a Benevento, si giocherà con una PlayStation fatta di nastro adesivo. E sono tornate come sempre anche le ultimissime del nostro Fausto De Salvia, che salutiamo e ringraziamo. Banzo, un commento telegrafico su queste ultimissime che ci mostrano uno spaccato un po' diverso della realtà. C'è una definizione straordinaria dell'autonomia differenziata, questa mancanza di senso dello Stato travolgente che si abbina a canti e balli, e mi sembra veramente perfetto. Poi non so perché, fra tutti gli effetti possibili di questa riforma, ne avevamo parlato anche qualche mese fa, Steven, qui a Zibaldone, questa riforma nefasta, non so perché il primo effetto debba consistere nell'impossibilità di giocare con la PlayStation a Benevento, quindi si arrangiano con questa PlayStation fatta di nastro adesivo che probabilmente non riusciranno più a staccarsi dalle mani, ma insomma lo scopriremo solo vivendo, si dice in questi casi. E lo chiederemo anche magari a Mastella, che insomma di Benevento è stato uno dei RAS locali dai tempi della Democrazia Cristiana. Comunque andiamo avanti. Palloni però sì. Ma anche sindaco di Benevento, anche sindaco di Benevento. Vabbè, andiamo avanti perché ci rimane un po' di tempo e abbiamo alcune news musicali da proporre ai nostri ascoltatori, e cominciamo anzi parlando proprio di quella che abbiamo sentito poc'anzi, Il sogno del marinaio. Esatto, un bel free rock o art rock, in mancanza di definizioni migliori. Il brano che abbiamo sentito si chiama Pedro Tenfold, o Pedro, pronunciato all'inglese, e si tratta di un super gruppo, un termine abusato, però con questa line-up abbiamo al basso Mike Watt dei Minutemen, Fire Rose Stooges, poi gli altri due membri invece sono italiani, abbiamo Stefano Pilia, che ricordiamo per Massimo Volume, in Zaire After Hours, Rocky Traoré, lui chitarrista, e Paolo Mongardi, Zeus Fuzz Orchestra Fulcanelli, insomma il pedigree è lungo, che ha sostituito il precedente batterista Andrea Belfi. E diciamo che è un ritorno un po' inatteso, perché comunque erano 10 anni che non pubblicavano qualcosa, e praticamente in contemporanea all'album è uscito anche un 7 pollici che si chiama Wing and the Prayer, mentre l'album si chiama Terzo, questo album del Sogno del Marinaio, che però non è un singolo perché il repertorio è completamente diverso. Quindi dopo un lungo silenzio sono tornati con questo sound sia energico che cerebrale, che personalmente mi ha conquistato alla grande, trovo super accattivante. Poi a te piacciono i brani strumentali, non sei comunque l'unico, ed è un'ottima canzone quella che ci siamo appena sentiti. E mi piacciono i Minutemen. Lo so. Andiamo avanti, I Hate My Village, odio il mio villaggio, il mio paese, Water Tanks, questo è il nuovo brano, ne parliamo tra poco. Banzo, vuoi anticiparlo brevemente, dai, questo brano? Dai, vuoi dire qualcosa ai nostri ascoltatori? Diciamo che si tratta di un altro supergruppo, però questa volta tutto italiano. Allora ce l'ascoltiamo, eccolo qua. Mr. Tanks, loro sono I Hate My Village e insomma Banzo, diciamo qualcosa al riguardo visto che l'hai anticipato e l'hai lasciato un po' a mezzo per i nostri ascoltatori. Esatto, li avevo presentati come un supergruppo perché la line-up è costituita da Fabio Rondanini, già nei Calibro 35, Adriano Viterbini dei Bud Spencer Blues Explosion e abbiamo ritrovato entrambi un paio di mesi fa, mi sembra, come produttori di Sandro Joyeux, e non è una casualità perché c'è comunque un amore per la musica africana. E a completare la lineup abbiamo Marco Fasolo dei Jennifer Gentle e Alberto Ferrari dei Verdena, ecco, forse Verdena, gli After Hours con i quali ha collaborato Rondanini sono i gruppi più famosi, però comunque se avete seguito un po' la scena italiana sono tutti nomi di una certa rilevanza ed è un progetto veramente molto interessante perché unisce due correnti musicali non troppo simili, se vogliamo, cioè la psichedelia e l'afrobeat, c'è una grande insistenza sui poliritmi, come si sente anche in questo brano, e secondo me l'originalità, insomma, nel 2024 è una parola ardita, però sicuramente siamo in presenza di un suono personale. Siamo sicuramente in presenza di un suono molto personale. A proposito di suoni personali, di voci personali, andiamo ad ascoltarci anche un'altra news che ci arriva, in questo caso da Barcellona, di un artista italiano che risiede qui, che è stato spesso nei nostri studi, che lo seguiamo con amicizia e calore, ossia Holden, al secolo Davide Sellari, il secondo singolo del suo nuovo album che uscirà dopo l'estate. Questa canzone si intitola Gioia negli occhi. Sentitevela. Modo nuovo per sperare. Un solo modo per sparire. E poi avere voglia di scappare e non accorgersi che poi somiglia a morire. Qui e non poterti parlare quando voglio, quando sbaglio, quando mi acceca un abbaglio, gioia negli occhi, alba senza rimpianti, è quello che sei, che in fondo trovarsi è stato come svegliarsi, adesso è come non svegliarsi più. Sentire tutto e non cadere giù. Io sono ancora qui, lo sai. Ti chiedo solamente di fermarti. È tutto vero, guarda, puoi vederci. Se vuoi, puoi prenderti cura di noi e poi sarà un pensiero leggero e normale scoprire che poi in fondo la felicità noi ce l'avevamo già. Ho aspettato tanto tempo, riapri gli occhi, ora guardami. Io sono sempre stato qui. Per te, per me, per noi. Holden, gioia negli occhi, aspettiamo con ansia il suo disco, anche questo uscirà dopo l'estate. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata del 28 giugno di Zibaldone. E Banzo, però ci rimane come sempre un paio di minuti per un'ultima canzone con cui ci salutiamo e ci diamo appuntamento la prossima settimana, ossia l'ultimo trago, una canzone italiana cantata però in spagnolo. Quest'oggi che cosa offriamo così al nostro pubblico? Qualcosa di abbastanza inedito per gli standard della rubrica, perché il brano è dos fuera de serie, Juana e Sergio, cantata da Sol Pilas. E forse i nomi, se non abitate qui in Spagna, i nomi Juana e Sergio non vi dicono nulla, ma se vi dico Mila e Shiro, sicuramente capirete, due cuori nella pallavolo. Ebbene sì, è la sigla del cartone animato, della versione spagnola del cartone animato. E perché ci siamo lanciati sui cartoni animati, Steven? È una cosa che sembra piuttosto estemporanea, ma invece una motivazione c'è, perché pochi giorni fa è scomparsa Alessandra Valeri Manera all'età di 67 anni, nome che per chi era bambino negli anni 80 dovrebbe suonare familiare, perché è stata per credo decenni protagonista della responsabile della fascia ragazzi di Fininvest, Mediaset, eccetera, e poi è stata anche autrice di moltissimi testi, sembra oltre un migliaio, cartoni animati, Cristina D'Avena ovviamente, e il suo stile è molto riconoscibile, diciamo c'è questo ottimismo motivazionale incrollabile e rime abbastanza discutibili, se mi permetti. E quindi ecco, qui si tratta di una cover, perché il brano originale composto da Ninni Carucci, con testo della Valeri Manera, è stato adattato in spagnolo e cantato da Sol Pilas, che è stato un tentativo sostanzialmente fallimentare di creare una Cristina D'Avena in terra iberica, perché tutte queste canzoni poi che erano state di Cristina D'Avena in Italia le cantava Sol Pilas, ma insomma non mi sembra che sia così presente nell'immaginario, no, qui. No. Comunque ascoltatela, perché è sicuramente un finale curioso, inedito. È un finale col botto. Noi ci salutiamo qui, vi diamo appuntamento a venerdì prossimo per una nuova puntata di Zibaldone. Fate l'amore con il sapore, buon venerdì e buon fine settimana. E come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid dopo la fine del franchismo, Enrique Tierno Galvana, alle 17:56 diceva tutti i venerdì. Comunque, quelli che su Facebook parlano in modo romantico dell'infanzia, dei nati negli anni 80, eccetera, dovrebbero ricordare che sostanzialmente siamo state le cavie dell'esperimento commerciale del berlusconismo. Ecco. Bravo, vero, e questi sono i risultati. Bye bye, buon venerdì sera, ciao Banzo.